buona serata da parte di Max Macchia, che vi parla da Radio Città Fujiko per 451 frammenti sonori. Siamo, insomma, uso sempre un po' il plurale perché di fatto poi siamo un gruppo al concio per quanto si vuole, però insomma rimaniamo, ecco, come ama dire, insomma, Eliseo, anche se in un senso un po' più largo della faccenda, un collettivo. Anzi, l'ultima volta si era espresso anche in termini di network, e forse in termini di network questa sera 451 frammenti sonori e mia compagnia appunto si esprimerà rispetto a faccende che riguardano anche, perché noi, network, forse con l'idea più che altro che c'era di network, e quindi di una sorta di accelerazione poi del sistema capitalistico. Questa sera 451 frammenti sonori, accelerazioni, appunto, un po' anche citando quello che nelle scorse trasmissioni, più o meno, soprattutto nella scorsa, è stata quella legata a vaporizzazioni e quindi vaporwave e fenomeni affini. Ebbene, dentro i fenomeni affini ci sono anche quelle che possono essere chiamate, forse da un manifesto che da qualche tempo gira su internet, il manifesto dell'accelerazionismo, difficile anche un po' da dire, e per quanto riguarda appunto gli italiani, più facile senz'altro in inglese, visto che viene da quelle terre, perlomeno insomma in termini di cultura anglosassone, è un'accelerazione vera e propria, se vogliamo, rispetto sia in termini chiaramente di linguaggio musicale, pur nessuno dichiarandosi ancora accelerazionista, sia in termini, e quello invece è un po' più chiaro, un po' più espresso in questo manifesto, che ovviamente è forse solo un momento, forse solo un inizio, o forse soltanto un episodio, un qualcosa che magari appunto è semplicemente un'accelerazione che va a cadere così nel vuoto, anche se poi nulla di fatto cade assolutamente nel vuoto, anche dopo anni di grande debolismo di ideologia appunto legata al pensiero debole, quindi anche lì, anche se volevano sconfiggere gli ismi, ci sono riusciti ben poco, probabilmente non volevano sconfiggere proprio nessuno e probabilmente volevano ottenere lo status quo. Bene, questi personaggi che questa sera poi tratteremo in una certa qual misura, soprattutto per il linguaggio musicale, spingono su quelle che sono musiche, suoni, attitudini, anche se vogliamo, decisamente legate al presente, quindi dal suono della telefonia che veramente diventa faccenda quotidiana già qualche anno fa, con appunto musichette che in continuazione ci inseguono e fanno parte, insomma, di fatto del nostro vissuto, oppure musiche che non si ascoltano quasi più perché oramai entrate dentro una sorta di quotidianità non più, e quindi una seconda natura non più rivelabile o svelabile come tale, data come certa, ecco, e sono buona parte delle muzak che appunto prima si chiamavano, si definivano in quella maniera. Abbiamo trattato anche faccende appunto legate alla muzak, anche con uno spostamento, se vogliamo un'accelerazione anche lì, in qualche 451 frammenti sonori fa, e qua la faccenda può andare tanto da certo sonorità post da dubstep a certe sonorità che riprendono tanto le vaporizzazioni della scorsa volta, quindi suoni che dalla vaporwave, quindi da una forma quasi astratta, vaporizzata appunto di wave molto sui generis, si trasforma appunto in un suono che ha quasi una forma neutra, se non che insinuante, se non che appunto l'accelerazione sta proprio nel rendere ancora più palese, nel spostare ancora di più su forse in nuce quello che è sempre stato poi dentro parte delle elettroniche, soprattutto quelle dance degli ultimi anni, se pensiamo insomma a molta dance che di fatto insomma è andata soltanto a battere cassa, l'accelerazione di questo, quindi del rapporto anche commerciale, se vogliamo, della faccenda, quasi un'accelerazione che porti a un paradosso, quasi una sorta di cortocircuito interno appunto del sistema, quindi anche una specie di anticapitalismo, ma molto molto molto generico, che però insomma ha degli aspetti anche interessanti, perlomeno per quanto riguarda una certa chiusura a livello storico con quello che è stato appunto una postmodernità infinita, un presentismo che oramai è con le retromanie che sono veramente diventate quasi croniche negli ultimi anni, e forse una spinta, insomma, un'accelerazione in quel immaginario futuribile, o forse una distopia, una delle tante distopie, ma anche se fosse questa, comunque ben venga, ecco, anche la forma distopica, perché pone comunque se non un'accelerazione, perlomeno uno spostamento dell'eterno presente che stiamo vivendo in questo momento, retromane, eccetera eccetera. Per iniziare andiamo proprio quasi ai prodomi della faccenda, Susan Chani, che abbiamo citato e abbiamo anche inserito tra l'altro appunto dentro le Muzak varie di 451, e beh, già partendo dall'avanguardia, dalle sperimentazioni degli oscillatori, della prima computer music nei laboratori americani storici, appunto, sia per implementazione tecnologica sia per esperimento vero e proprio poi sul linguaggio musicale, intorno alla fine degli anni 70 incominciò a accelerare quello che era il carattere di Muzak, che ci sempre stato poi anche nelle sue ricerche, facendo musiche per strumenti tecnologici, per televisioni che magari spingevano più su questo lato, magari più sulla fascinazione del futuribile più che un senso di futurismo o di futuro appunto intravisto o voluto, ecco, sentito in questo senso. E il paradosso c'è sempre stato, e probabilmente c'è, anzi forse più che all'epoca, stiamo parlando della fine degli anni 70, primi anni 80, forse ancora più oggi c'è questo paradosso nel trattare appunto faccende che hanno potenzialmente questo lancio, questa accelerazione futura, futuristica o futurista addirittura per certi versi, perché c'è dentro anche come modalità del manifesto, c'è questa idea anche che forse si trasformerà, per certi versi lo è anche, in ideazione futurista. E appunto la Chani, andiamo a sentire proprio da questi spot che comunque appunto hanno creato un immaginario, anche qua una musa, che quindi cose che sembrano molto familiari, che più o meno insomma ha superato i 30, mettiamola così, e che però non sono riconoscibili direttamente dati appunto dalla Chani oppure dal personaggio che dopo sentiremo, ma sonorità che sono state quasi hanno alimentato di fatto immaginari tecnologici più o meno spinti, e quindi come prodomi poi di quello che sentiremo dopo. Ci piaceva iniziare con Susan Chani per questo 451 accelerazioni, e poi immediatamente dopo Gary Sloan con i Clone, anche qua la clonazione, un progetto veramente all'atere quasi irrecuperabile se non fossero tempi appunto di anche retromanie che diventano poi con prese di coscienza e anche appunto anche qua dei lievi ma interessanti spostamenti anche a ontologie, quindi a tutta la faccenda del recuperare l'irrecuperabile e di reinventarlo appunto nel suo essere, insomma, futuribile o futuribile, futuristico, in termini appunto quasi primigeni, ecco. Ma comunque sentiamo e forse capirete anche meglio dove voglio arrivare, o dove appunto arriveremo poi durante il corso di 451 accelerazioni. Susan Chani, appunto, per iniziare. We'll be right back. E con una sorta di tempesta finisce questo pezzo di Gary Sloan, personaggio assai strano, poco definibile, soprattutto dentro, soprattutto fuori per molti anni, dentro quel grande calderone delle ontologie, del recupero, come accennavo prima, dell'irrecuperabile, una sorta di dada accelerazionista della fine degli anni 70, Gary Sloan con i suoi clone tape che vengono una sorta di qual misura riesumati nel 2012, facendo tra l'altro un'edizione limitata per doppia cassetta, quindi anche qua un atteggiamento che così la dice lunga su come sia ancora refrattario in una sorta di una certa qual misura rispetto sì, alla commercializzazione, ma poi alla fine in termini di linguaggio abbiamo sentito delle musiche che si cibavano della muzak, appunto della fine degli anni 70, e non a caso l'abbiamo unito appunto alla Ciani. C'era come nella Ciani e anche in Gary Sloan con il suo progetto Clone, e proprio questo senso di accelerazione del tecnologico anche in termini appunto di implementazione capitalistica, in termini di mercato, in termini quindi di una tecnologia spendibile ma soprattutto vendibile. E in questo senso, se pensiamo anche all'accelerazionismo di certi residence di Commercial Album, dove inventavano con 40 pezzi da un minuto lo spot dell'assurdità. Certo, lì il paradosso era già compiuto, era già un'operazione di graffio rispetto o comunque di deturnamento rispetto al commercial, allo spot. E qua la faccenda magari era più in nuce, magari più sviluppata per quello che ora potrebbe essere appunto come accelerazione, quindi come attitudine, forse Gary Sloan più di Susan Ciani, che in certa qual misura dalle prime appunto esperimenti avanguardistici, però sempre con quel piano divulgativo che è sempre interessato la Ciani, questo è assolutamente riscontrabile nelle musiche della nostra. Però appunto dopo di fatto negli anni 80, dopo i primi esperimenti appunto legati anche a queste forme di musiche futuribili, spot che sapevano tanto appunto di futuro o che immaginavano appunto un elemento futuristico, poi di fatto la Ciani si darà una sorta di elettronica molto leggera, molto vicina poi a relax, a new age, quindi una muzak a tutti gli effetti, ecco. Però questo è un po' il recupero anche interessante di questi ultimi periodi, stanno ristampando appunto sia in termini dei primi esperimenti degli anni 70, ma anche in termini appunto di questi momenti di grande immaginazione che di fatto insomma furono legati a degli spot. E proprio Gary Sloan, tra l'altro, con i suoi clone, che stampa questo split tra appunto la Ciani e recuperando i suoi spot, e poi recuperando appunto lavori dei clone, progetto appunto di Gary Sloan, che abbiamo ascoltato appunto per questo split tra Ciani e appunto clone, Gary Sloan e clone, e poi abbiamo ascoltato anche il progetto di Gary Sloan, disco pubblicato, o anzi doppia cassetta pubblicata nel 2012, con un pezzo che comunque rispetto sicuramente alla Ciani aveva quell'atteggiamento un po' sgraziato, se vogliamo, un po' beffardo anche, che dentro la musica della Ciani non c'è questo elemento, però anche qua, appunto, accelerando quel apporto tecnologico, non rendendolo paradossale quanto i Residence, ma avvicinandosi insomma a quei lidi. E se dovessimo appunto parlare di accelerazionismo di questi giorni, Amnesia Scanner, con un suono fortemente dubsteppato, ma anche qua sul dubstep pensiamo appunto alla parola dubstep, soprattutto alla seconda parola step, appunto passaggio, e quindi momento, no, interlocutorio quasi. E se partiamo dal two step, dopo appunto il grande fenomeno della drum and bass, poi trasformatosi per molti aspetti in two step, e poi appunto una specie di evoluzione anche di questo è stato il dubstep, e quindi una sorta di interregno che si viene a creare tra two step, e soprattutto per quello, e già con un dubstep che si fa fortemente urbano, con quel senso appunto tra surrealtà e una urbanizzata vaporizzata, appunto, e anche però quel appunto aspetto di accelerazione, di portare sia una sorta di paradosso, appunto, le musiche tecnologiche, le tecnologie, in questo caso legate alla post dance, quello che vogliamo considerare insomma così vagamente come tale. Poi in realtà prende tanto appunto da siglette o sigle, ma anche piuttosto interessanti, quanto da certe forme di cosmicheggiamenti che poi diventeranno muzak anche essi, certe ambientazioni che ricordano i primi vagiti, diciamo, molto genuini anche della primissima, appunto, New Age. Amnesia Scanner ha vari di questi elementi, e poi ha questo suono che diventa quasi talmente neutro da diventare quasi alieno in un certo qual modo, quindi un'accelerazione che appunto aliena, e in questo senso il tecnologico diventa anche qualcosa di un po' inquietante. Musiche che hanno queste vocette, questi momenti di appunto grande accelerazione tecnologica, ma anche proprio ritmica, si sente proprio che quasi scappa la cosa, anche se poi è tutto piuttosto controllato, piuttosto anche cerebrale, anche in questo senso ha questo aspetto inquietante la faccenda di Amnesia Scanner, che andiamo a sentire con alcuni pezzi tratti da Angel Rig Hook, girato più che altro come file appunto in rete. Here. Thunderdome. Thunderdome Anagrams. We're gonna take everything before the success. We need more weapons. High-speed Wi-Fi provided by drones is a given. Arab money and ciphered currencies. Treasure Island. Buccaneers and buried gold. A stream of more or less violent crime. What was violence again? Flora 312. We're there. I hand the driver a flake of skin and a fingernail. The oil rake. A bird flies over. We extend our arm and stand completely still. Bird lands. Bird makes sound. Gently touch bird. It lets that happen. Bird says, identify bird. Sparrow. Place filter on sparrow. Mosaic. Turbulent display. Hue situation. Bird is simplified. Jagged edges. Orange for now. Everyone, Amnesia Scanner, ascoltato appunto da questa EP, il primo, Angel Rig Hook, musiche che avete sentito, sono tanto dubstepistiche come musiche che invece vanno a impattare direttamente con i suoni anche fastidiosi che ci sono in giro quotidianamente, appunto legato a cellulari, a suoni che invadono di fatto momenti più o meno disattenti, appunto carpendo e anche violentando in questo senso sia gli astanti ma anche chi poi di fatto non è lì nella presenza appunto di magari nel viandare insomma del così merceologico che c'è in giro di sabato o venerdì insomma durante i weekend e quindi così invaso da veramente suoni che riflettendo un secondo appunto sono non semplicemente invasivi, proprio diventano quasi pervasivi e persuasivi, no? Appunto cibandosi di queste musiche, di queste sonorità, anzi di questi suoni che poi veramente altro che quelli veramente sono cacofonici e non il vero noise che c'è in giro, in questo senso anche c'è una sorta di riflessione, no, su quello che veramente è rumore nel senso più deleterio del termine, appunto come non organizzazione oppure organizzazione del suono affinché diventi qualcosa appunto di persuasivo, qualcosa che porti in questo caso a comprare, no? In questo caso appunto viene utilizzato in un'altra maniera o una sorta di anche qua di ciclo che non si chiude, o se si chiude in maniera paradossale, utilizzo quel suono assurdo proprio per sia in chiave creativa ma anche proprio rendendolo qualcos'altro, appunto una spinta, un'accelerazione verso un altro, verso appunto una spinta futura di questi suoni e di queste attitudini appunto tecnologiche e dentro appunto un'idea di futuro, quella che accompagna futuri rumori puntualmente ogni 451 frammenti sonori. Beh, questa sera abbiamo l'onore insomma di ospitare Tabash, progetto della neonata etichetta Timeless Record, tra l'altro collegata anche con Matteo Scaglioli che abbiamo inserito la settimana scorsa, con il suo bel progetto che tra l'altro appunto probabilmente vedrà anche delle collaborazioni con questa neonata Timeless Record che questa sera andiamo a ascoltare proprio con la prima uscita di appunto Francesco Tabanelli e dentro poi Timeless Record c'è anche Giovanni Ricchi e Alberto Randi e il progetto di Tabash vede sicuramente da quello che abbiamo capito Francesco Tabanelli, progetto molto interessante, con una techno post disastro, potremmo dire, questo noise che attraversa la composizione, un po' struttura anche la faccenda, ma soprattutto ha questa spinta che ci piaceva insomma inserire anche dentro questa trasmissione, non che sempre Futuri Rumori appunto abbia un collegamento diretto con il tema di 451 frammenti sonori, in questo caso forse un po' ce l'ha nella spinta appunto a utilizzare comunque una matrice tecnoide che però ha anche quel disegno lì non accelerazionista ma fortemente utopico, utopistico di questa sorta di sfondamento cosmico che ha il progetto Tabash con questo Searching Total State, disco seriamente interessante appunto edito dalla Timeless Record, e questa sera appunto dentro i Futuri Rumori di appunto 451 frammenti sonori, 451 poi in generale.